Suoni spaziali e altre fantasticherie da parte di Neon Indian, che poi in realtà subentravano nella prima parte di 451 frammenti sonori, chiaramente in compagnia di Eliseo Scarpa e di Max Macchia, e quindi ritornati più o meno sulla terra, ma poi relativamente, visto che questa sera più che altro parliamo di allunaggi, facciamo sentire musiche che comunque riguardano la luna, comunque sono musiche satellitari, comunque sono musiche alienate fuori dalla terra. Abbiamo reiniziato sperando anche di avere creato una sorta di buco rispetto alla prima parte, un pizzichino più legato al flusso, ma poi dopo entreremo nei flussi veri e propri, cosmicheggianti, New Weird Age, e appunto abbiamo estrapolato dal cappello magico, ti piace? Cilindro magico. Bello, bello, mi ricorda un film anche. Sì, ma un film che si può dire in radio. Sì, è un film brutto. Non di spadaccini. No, non di spadaccini. Che film? È un film horror. Un film horror. Degli anni 80, cosa Lucia? Quale? E non me lo ricordo. Ecco, non te lo ricordo. Vabbè, poi dopo vediamo di fare un po' di mente locale. E quindi abbiamo così estrapolato forse il versante più pop dell'intera faccenda del glo-fi, ovvero questa sorta di rimando a una sorta di anni 80 veramente mai avvenuti, con Ariel Pink, con Neon Indian, appunto, che subentravano anche con i loro stacchetti, le loro sigle assolutamente assurde, e poi anche Gary War, che appartengono più o meno alla stessa frequentazione sonora, e proprio per questo rimando, questa nostalgia del futuro, un futuro appunto mai avverato di fatto. Queste, come dicevamo inizio trasmissioni, Kodak sbiadita, VHS, come d'altronde la California Hi-Fi, che potete anche appunto ritrovare in rete, prime sorte di sperimentazioni digitali fatte in VHS, quindi con tutti anche i vari screzi non voluti chiaramente a VHS, tutte le imperfezioni. L'opalescenza sta proprio in questa lontananza. Potrebbero essere anche dei pezzi veramente da MTV in maniera proprio schietta schietta, se non fosse per appunto questo suono quasi sgranato, questi echi che non solo riguardano la nostalgia di questo futuro passato, ma anche proprio una materia sonora che va quasi a sgranarsi, è una sorta appunto di gioco quasi della memoria, ma di una memoria appunto di un tempo assolutamente inventato, sia quello di Ariel Pink che quello di Gary War, che anche delle sigle di Neo Indian, Indian, forse una via che non è stata mai intrapresa da un certo suono che si intravedeva tra fine 70 e 80, che è rimasto lì, una sorta appunto di perdita, di rimosso che riemerge in maniera paradossale, appunto anche pop con riferimenti dabbistici, psichedelici, folk, new wave, techno pop, quant'altro, insomma, dentro questo calderone appunto di grande, però, come dire, nebbiosità, eh? Bello, mi è piaciuta questa cosa. Perché sei anche tu un po' palescente, secondo me. Beh, assolutamente, molto palescente, soprattutto quando mi sveglio la mattina, insomma. Sì. Chiamiamola tarda mattinata, tarda molto tardi, mattinata, sono molto palescente. Beh sì, devo dire che questo trittico che adesso abbiamo presentato, anche se poi Neon Indian le abbiamo già inseriti nella prima parte e dopo subentreranno ancora, saranno un po' l'elemento disturbatore, un po' come quelle frequenze di disturbo che alle volte accadeva di imbatterci negli anni 80, quando vedevamo i primi canali, iniziavano a uscire i primi canali purtroppo privati insieme alla Rai, e non è che qualcuno la Rai è anche scomparso, tanto no, meglio, eh? Però c'erano queste interferenze, se ci fai caso adesso le interferenze non ci sono assolutamente più, dunque hanno controllato almeno a livello di tubo catodico, poi adesso col digitale forse succederà qualcosa di ancora più inquietante col digitale terrestre, perché lì è proprio tutto blindato. Una volta esisteva questa interferenza che devo dire che come strumento, come media, posso dire, prego, perché se non sembra che prego, si accomodi, prego. Grazie, ma come gentile collega o segui. Non è la faccenda tanto della trasmissione digitale, che potrebbe essere anche interessante. Beh, chiaro, potenzialmente è veramente grosso. Il problema è degli oligopoli che si sono creati e dello scontro che si sta creando tra il signor Murdoch e Berlusconi che soprattutto, infatti, bloccherà sarà tutta la faccenda e la blinderà. Infatti. Poi ci sono altri canali trash che sono usciti di altre compagnie, comunque satelliti di questi due personaggi. Comunque, effettivamente, l'unico media, o media se vogliamo essere più corretti, rimane la radio. La radio ha ancora un casino di interferenze. Sì. Per cui ti capita di sentire una radio, a un certo punto ti arriva una radio monnezza che si infila e ti disturba, dunque ancora la radio mantiene questa cosa di interferenza. Bene, stando dentro il tema dell'opalescenza, dell'interferenza, della sgranatura, andiamo a trovare una formazione che è tra le più interessanti della nuova scena, connessa soprattutto a questa rivisitazione della musica cosmica tedesca, però sempre in questa forma intrecciata tra suoni, immagini e dimensioni di interferenze temporali e anche sonore, che stasera sta attraversando tutto il nostro percorso. Parliamo di ARP, oltretutto questo nome non è stato dato casualmente dall'unico personaggio di questa formazione, che è Alex Georgopoulos, di origine greca ma nato e vivente a San Francisco. ARP in realtà è un tributo prima di tutto a un grande artista dadaista e astratto come Jean-Hans Parp, e anche Alton Arp, il creatore del famosissimo sintetizzatore Arp, uno dei synth più pionieristici dell'elettronica degli anni 70, utilizzatissimo poi dai cosmici e non solo negli anni 70 stesso. Dunque c'è ovviamente un tributo a questi due personaggi che si intrecciano non casualmente in questo discorso che musicale degli stessi, di questa formazione Arp, che possono risultare sicuramente astratti, dadaisti, cosmici, mischiando poi anche altri suoni che appunto sembrano anche difficilmente databili. Si sentono gli anni 70, ma anche gli anni 80, in alcuni momenti anche gli anni 90. è qualcosa di estremamente confuso, appunto quasi una sorta di sogno sonoro, dove si va a ricollocare vari pezzi frammentati di un nostro passato, perché poi concretamente i periodi storici che vengono attraversati stasera sono stati anche attraversati da noi, proprio noi due conduttori, 70, 80 e 90, e qui vengono quasi messi in una centrifuga, in un grande frullatore, ed esce fuori appunto questa massa indistinta che però all'interno ha dei pizzettini di frammenti, quasi una sorta di frutta che non viene completamente rimescolata, ricorda il sapore, un suono di un periodo, o quello che appunto, come giustamente diceva Max, avremmo voluto fossero quegli anni, che non sono stati. Ed è un po' il filo conduttore di stasera, che ritroviamo anche in ARP, con delle dimensioni assolutamente particolari, che l'unico modo per riuscire a coglierle appieno è ascoltarle. Dunque, ARP, da il disco The Soft Wave, uscito proprio quest'anno, l'ultimo album del 2010. Thank you. Bene, rientrati con Neon Indian, che stanno facendo un po' da sigla così lunare di questa serata, appunto, di 451 e la luna. Poi faremo, che ne so, la prossima puntata 451 e il sole, e poi pian piano ci sposteremo. Bellissimo. Ti è piaciuta, sapevo, tu sei sempre un po' inglese, come ironia. Molto, molto bravo anche tu. Grazie. E abbiamo ascoltato quindi ARP mixati poi con Pulse Emitter, personaggio insomma piuttosto particolare, Pulse Emitter, visto che viene dal noise più tremendo degli anni zero, e con gli anni ha riscoperto un suono che era antitetico, assolutamente antitetico al nuovo noise americano, quello di Wolf Eyes and Company, che è appunto una sorta di recupero paradossale, assolutamente inventato, questo lo sottolineiamo insomma dall'inizio di questa puntata di 451, che è quello appunto della New Age. Ultimamente Pulse Emitter sembra molto interessato a quelle sonorità anni 80, ma appunto anche lui, come i protagonisti insomma di questa serata qua a Radio Città del Capo, in particolar modo a 451 Frammenti Sonori, e così lo rende assolutamente fantastico come recupero, un recupero che sa invece di nuovo un recupero più veramente così accennato, non tanto come provocazione ma come un'attitudine a una divagazione, a una sorta appunto di fuga, appunto forse anche lunare. E Pulse Emitter quindi ha creato questi ultimi anni un suono che andava a toccare spazi sempre più siderali, non soltanto viaggi cosmici ma anche appunto sorte di così invenzioni paradigmatiche di ricerche anche sonore dentro musicalità che provengono da un certo background, poi non soltanto, come dicevo, insomma, coniato dal cosmico, ma anche da certa proto ambient o post ambient anni 80, che sta rileggendo in maniera assolutamente originale, quindi si potrebbe dire anche nuova. Da Plus Emitter, poi un'altra, appunto, delle sigarette di Neon Indian, e adesso i Black to Come, formazione altrettanto importante sulla scena degli anni zero e su tutto questo filone che stasera stiamo affrontando nel tema dell'opalescenza e appunto di questa rimasticazione in ottica futuribile e un futuro mancato appunto degli anni 70-80. L'album oltretutto è un chiaro riferimento, questo è The Black to Come che andremo a ascoltare adesso, Alphabet 1968, a un periodo storico di forti mutamenti anche dal punto di vista musicale, nonché sociale e politico, e non a caso loro si rifanno un po' a questa estetica rivoluzionaria che viene rappresentata in questa data storica del 1968. Formazione che è stata, come avevo detto all'inizio, piuttosto importante nella nuova scena degli anni zero, nata oltretutto nel pieno appunto degli anni zero, nel pieno di queste dimensioni sonore che recuperano musica cosmica e atmosfere anche di una certa elettronica minimalista riportata soprattutto in quelle dimensioni elettroniche tra i 70 e gli 80. E questo disco rappresenta molto bene questo discorso musicale dei Black to Come, che appunto non si sono ridotti soltanto a questo lavoro uscito nel 2009, ma hanno realizzato anche altri album che avremo sicuramente occasione di mandare in onda nelle prossime puntate di 451. Etichetta è la Type per l'uscita di questo album, e a questo punto ci andiamo ad ascoltare una traccia, anzi due tracce, una piccolissima, minimalista, ma con delle dimensioni che ricordano anche certe colonne sonore di film di fantascienza che hanno attraversato in maniera assolutamente feconda gli anni 70 e 80, che forse, abbiamo detto, con questa uscita abbastanza anomala di Moon, questo film che vi consigliamo ancora di vedere, chissà, potrebbero aprire una nuova strada in una fantascienza piuttosto interessante, per certi versi anche nuova, seppur recupera certi linguaggi del passato. Andiamocela a sentire dunque, Alphabet 1968, l'artista e il gruppo è Black to Come. E siamo ritornati in diretta. Non ridere, Max, perché era andato tutto bene fino adesso. D'altronde, qualche... ma tu con i volumi esageri sempre, caro. Prima giorno già ci buttano fuori tra qualche minuto dalla radio per i volumi. Ma non è vero, i volumi sono accettabilissimi dentro un apocalisse. Sì, vabbè. Comunque abbiamo ascoltato questo splendido lavoro, questo flusso sonoro, questo drone ma anche muro nello stesso tempo d'impatto di Black to Come, molto, molto suggestiva anche la parte finale del brano che abbiamo ascoltato con questa orchestra di fiati che ricorda molto le dimensioni minimaliste e poi questa piccola ninna nanna piuttosto disarticolata, zoppicante, un po' malata che dedico a te. Bene. Prima che vai a dormire, così dormi bene. Sì. E da quindi i deliri di Eliseo Scarpa ai deliri di Oneotrix Point Never, già il nome insomma è piuttosto fantasioso, se non addirittura fantastico, queste possibilità non solo date dalle musiche ma anche da giochini linguistici e forse anche il senso del gioco, non tanto come espressione ludica ma come forma di fuga, come possibilità escapica, se insomma mi fate passare il termine, e appartiene appunto al mondo non soltanto di Onitronix Point Never ma anche dei personaggi che questa notte o giorno si sta ascoltando il blog. Bravo, infatti ricordiamo, perché se non lo ricordo io, aspettiamo Max Macchia, guarda che è rimasto ancora all'età della pietra. Io la pietra della lancio in testa. Comunque il blog, giustamente, vediamo se te lo bisogna ricordi, ricordarlo, perché ovviamente è stato anche rivisitato, ricostruito e modificato nella sua veste grafica, ora è anche molto più semplice da sfogliare, come fosse un giornale, uno dei tanti giornali che noi leggiamo insomma tutti i giorni. E il sito, l'indirizzo del blog, che è un no blog, ricordiamo ancora, all'interno della rete Autistici Inventati, e è sempre quello, dunque www.451frammentisonori.noblogs.org. Ecco, te lo sei ricordato. Volevi farmi i tuoi soliti quiz della munnezza qua. E invece è andata bene. Ecco, anche coloro che come Max utilizzano ancora delle pietre focaie per muoversi come mouse, insomma, sulla tastiera, potete raggiungere il sito senza grossi problemi, insomma. Non peccato che sia un blog e non un sito. Vabbè. Questa è la battuta che anche il nostro grande Lorenzo Albano, che salutiamo e ringraziamo perché ha fatto un lavoro immane, gigantesco, che Max non potrebbe neanche concepire nella sua esistenza, e perché c'erano stati dei cambiamenti tecnici durante l'estate da parte del webmaster, dunque abbiamo dovuto ricollocare tutti i materiali. Devo dire un grande ringraziamento da parte mia e da parte di Max nei confronti di Lorenzo Albano, che lo salutiamo questa notte. E ovviamente sul blog potete trovare tutte le notizie delle trasmissioni passate, e anche questa trasmissione la potete risentire come le altre in podcast formato MP3. E avrete anche qualche notizia in più e qualche curiosità, soprattutto su questo grande compagno di viaggio che è Max Macchi. Va bene, posso parlare o devi ancora delirare? Devi ancora dire stronzate? No, va bene. Oneonitrix, vedi che mi fai anche impappinare. Point Never, Young Bednaga, e il disco da cui andiamo a trarre una di quelle tracce che rendono il suono cosmico, una sorta di viaggio tra nebbie che ricordano, che rimandano, che giocano appunto, come dicevo prima, sulla memoria, e fanno di questo viaggio appunto un'opalescenza sonora decisamente affascinante, probabilmente uno dei più acuti sì, personaggi che stanno calcando le scene di questa nuova poi scena Glo-Fi o New Weird Age, insomma, oggi ce la stiamo giocando tra una e l'altra, probabilmente potremmo anche chiamarli Pnagogic Pop, come l'ha chiamato Simon Reynolds. Vabbè, poi appunto potete inventare anche un po' di cosettine voi. Sei a posto tu? Sì, sì, sì. Non è Onitrix. Beh, è un viaggio serio dentro una memoria sonora che si perde veramente dentro i decenni passati, sia 70, ma anche, poi non abbiamo citato un nome grosso che tra l'altro compare anche in California, Hi-Fi Videos, andatelo a cercare in rete perché a livello visivo sicuramente vi rimanderà queste musiche, un videotape con prime digitalizzazioni e quindi un rimando anche cinematografico a quella splendida sperimentazione che fu Tron, tra l'altro guarda caso tra qualche mese dovrebbe uscire anche il Tron 2 con la musica Daft Punk, noi lo aspettiamo, speriamo insomma che non ci deluda su quella strada. Non credo, poi comunque consigliamo anche a molti ascoltatori, dato che noi comunque ci intrecciamo sempre col discorso filmico oltre che quello sonoro, di riandare a rivedere Tron l'originale, perché molti l'hanno un po' sottovalutato questo film per molti anni. In realtà è un film che assolutamente era anche dirompente per gli anni Ottanta, il modo in cui anche la grafica stessa, l'immaginario poi ricostruito attraverso questa forma primordiale del digitale degli anni Ottanta, è assolutamente interessante e da rivedere, perché poi esistono molte cose che poi hanno attraversato un immaginario anche connesso alla fantascienza che poi è stata di là da venire, insomma, degli anni 90 e degli anni zero. Sì, per tanti versi si è anche perso quel legame appunto con la fantascienza, proprio il fantastico legato alla scienza, per appunto una postmodernità che si è voluta come eterno presente qua, probabilmente invece parlando di nostalgia e magari tra parentesi potremmo mettere anche utopica del futuro, invece si ritorna forse a parlare di nuovo, e beh, viva Dio, insomma. Sai che quando hai detto nostalgia, mi stavo preoccupando. Nostalgia canale. No, ma quella è tua, è tutta tua, caro, te la lascio. Nostalgia canaglia, che poi era un pezzo degli anni Ottanta. Certo, ma quelli insomma, sì, no, volendo si potrebbe anche recuperare Ricchi e Poveri. Per certi versi, Neon Indian, in alcuni pezzi ricordo pure Ricchi e Poveri, un po' filtrati. Nostalgia canaglia. Nostalgia, no, forse Albano e Romina. Albano e Romina. Però così scopriamo troppo le cave, veramente ci abbiamo proprio nel DNA ste robacce. Comunque era Steve Roach, quello che volevo ricordare. Bravo, prima del California Hi-Fi Videos. Bene. No, perché sennò poi veramente qua Ricchi e Poveri finiamo, Albano e Romina. È un po' l'Italia, insomma. È un po' Toto Cotugno, sono un italiano vero. Ecco, Gianni Tone, guarda il mondo da uno blog. Ecco, tanto per citare un Ungaretti quasi, filtrato da appunto al grande Gianni Togni. Caro, non sai quanti Gianni Togni che girano? Sì, soprattutto Togni più che Gianni. Tonni. Anche Togni, da supermercato, una scatoletta che ami tanto, tra l'altro. Amavo, ma adesso non posso più. Non puoi più, te l'ha detto il dottore. Niente, torno per un mese. Torni cosmici, niente. Niente. E caro, che facciamo? Abbiamo fatto questo percorso. Rimaniamo qua. Adesso dormiamo. Abbiamo portato delle coperte, dei cuscini. Se volete chiamarci in radio, vi salutiamo. Bene, vi lasciamo a questa bellissima nottata umidissima di Bologna. Rinunziata probabilmente a Bologna l'inverno. E vedremo tante cose molto belle in questa città, tante novità, tanti lizzi, frazzi e ollezzi, quelli sicuramente. Bene, dopo queste belle, insomma, parole come pietre, insomma, piovono pietre. Sì, in testa. Noi vi rimandiamo domenica prossima, buon lunaggio, insomma. Ascoltateci attraverso il lavoro di Lorenzo Albano e del blog 451frammentisonori.noblogs.org, e poi ci risentiamo. Lorenzo insomma. Albano, non Albano. Albano Lorenzo? Cosa senti, Albano Romino? Sì. No, ho detto Lorenzo Albano. Ma sulla Luna, secondo te, dato che hai parlato di allunaggio, la trasmissione di oggi è 451 e la Luna, secondo te sulla Luna ci sono i compagni? Buonanotte, sul serio.